storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera e buon carnevale da Gesi. E da Antonio. Hai passato bene la domenica di carnevale? Ma sì, sì, sufficientemente bene. Adesso grazie. Martedì qui a Treviso abbiamo i carri. Certamente. A te sì, come la tradizione. Sì, diciamo che quando sono fatti con criteri, diciamo, che stiano nella norma, quando non esagerano, diciamo che va bene così. Va bene, allora a te la parola. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è www.bluradioveneto.it. Il nostro numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro è il 346 23 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un cordiale saluto al nostro regista. Al nostro regista e anche a Mirko che certamente, è qui fuori, certamente. Anche lui. Bene, allora Antonio, stasera parleremo di Venezia. Stasera tutto Venezia, sai? Benissimo. Ci sarà al telefono un ospite virtuale, che è la signora Gianfranca Turchetto, che avete, penso che vi ricordiate, perché è già stata con noi diverse volte in queste trasmissioni. E anche la musica stasera sarà tutta veneziana. Cosa dici, Antonio? Va benissimo, benissimo. Anche perché martedì è l'ultimo giorno di carnevale, c'è il carnevale di Venezia. E poi rimane tutto quanto in carattere. E poi diciamo, rimane tutto, ecco, certo. Visto che ne ho trovate parecchie. Certamente. C'è un cantante veneziano che è un po' nell'ombra, perché forse per la ragione di salute o non so, però che a mio avviso è un bravissimo cantante ed è Alberto Colla di Venezia, un tipico cantante veneziano che ha una stupenda voce. E come prima canzone, appunto, facciamo Dal Lido al Canal Grande, cantata da Alberto Colla. Declina il sole sul tramontar e tutta d'oro Venezia par, mentre i due mori batton le ore in ogni cuore batte l'amore. Paradiso, un'alba rosa, un tramonto che muore, c'è in ogni cosa un poema d'amore. Dal Lido al Canal Grande, una gondola passa e va, comincia un bel dolce nome felicità. C'è in ogni cosa Eccoci di nuovo in studio e fra pochi secondi sentirete la nostra ospite virtuale, che è la signora Franca Turchetto. Pronto? Pronto? Franca? Sì, pronto, buonasera, sono che vi ascolto. Buonasera. Qua. Buonasera Jesi, buonasera ai tuoi collaboratori. Buonasera, buonasera Franca. Bentornata Franca. Grazie a voi per l'invito che mi sollecitate ogni tanto. È sempre un grande piacere. Grazie, altrettanto. Allora, stasera cosa ci proponi di bello? Dunque, stasera io pensavo di ritornare un po' all'origine della Madonna Candelora qui a Venezia. Benissimo. Che comprende anche il rapimento delle spose veneziane, che sarebbe l'origine delle Marie, cioè le 12 fanciulle che fanno parte del corteo dell'apertura del carnevale. Perciò tre cose veneziane in un momento solo. Benissimo, a te la parola. Grazie. Allora, ci sono due piccole frasi qui. L'anno in 12 mesi è diviso. Sono 12 a Venezia le Marie, con l'angelo che vengono dal paradiso, come l'anno col sol, dal sole sono vestite. Allora torniamo alle Marie. Dunque, i popoli antichi, come i babiloniesi, caldei e persiani, avevano un strano modo di maridar etose, sofie anche, e considerava come fie del Stato. E allora i matrimoni venivano fatti in un posto pubblico e tutti insieme, cioè una volta l'anno. Seguendo sti usi di sta gente, ogni anno a San Piero de Venezia, che sarebbe, io chiamavo Olivolo una volta perché a sua forma già era fatta come una uiba. Non capire. I festeggiava le nozze de 12 fie, donzelle, gli chiamava all'epoca, con altrettanti buoni tosi. Sta festa e ori ya cominciava il 31 di gennaio, perché c'era la ricorrenza dell'arrivo dall'Alessandria d'Egitto del corpo di San Marco. Ah. E cominciava il 31 e dopo era passata ufficialmente al 2 febbraio, giorno della Candelora, della purificazione di Maria, perché qua c'è l'episodio sia col matrimonio sia dopo quella benedizione dei candei, i ha ritenuto opportuno questa festa dedicarla alla purificazione della Madonna, no? Ecco, allora, sto 2 febbraio per la Madonna Candelora, forse appunto in onore della Madonna, tutte ste spose e se stai poi Marie. Ah, tutte Marie. Tutte Marie. C'era allora un doge, uno dei candiani, e il giorno della Candelora, ste 12 fie, c'era a presentare in chiesa, come che ho detto prima, a San Piero. Ognuna deste tose aveva sotto il braccio una cassettina, fa conto un bauletto, sì, piccolo, sì, degno, chiamata Arcella, che veniva fatta da dei speciali artigiani di Venezia. Arcella. Di Arcella, sì. Con dentro e adotta, non so che dota che aveva, che avrà avuto un camisotto, non lo so. No, c'è qualche... No, aspetta, perché qua correva l'anno 950. Ah. Ti ha capito, perciò non che era più di tanto. Sì, sì. Starcella, no? E sto vescovo, qua dentro è dotta, sto vescovo, e il vescovo stava per maridarle con altri tanti uomini, insomma, altri tanti massi. Intanto è successo un gran malanno. E a sera prima, sapendo che c'era sto discorso qua, i pirati narentani da Trieste riuscì prima del giorno del matrimonio, del 2 febbraio, arrivar e ori. I segasconto de notte su tutta una boscaglia che c'era de alberi, un sacco di porcarie, cosa stamattina del matrimonio i si presentà e a queti, si era messo in posa davanti, parlava, e faceva finta di niente, finché a un certo punto si era infatti garapio tutte le 12 spose. I garapio, i porta via sta Arcella, che poi dentro che c'era anche dei soldi che donava Repubblica, no? Sì, sì. E ha i gazzappaste tose e si partì. I ha fatto stima anni, si entra in cese, e a forza dei remi, cosa che infatti si è orientato verso la costa, e si è per via, ma fa conto, sto San Piero del Castello, se all'aperto, conti che ha fatto prestito, che ha pagato tutta costa. Insomma, per andare verso Trieste, quando che i arrivai, se capisce, e ori, l'ha fatto ora brusare tutti gli orti e tutte le vegetazioni che c'era dove chi si era trovato, e c'era già drio dividersi a dote il bottino. Nel frattempo, il doge della Repubblica di Venezia si sta avvisando di questo fatto, e svelto che dà ordine a tutte le navi che c'era disponibili in arsenale di correre drio. Fa conto, e ora c'era con delle barchette, stati c'era con un po' di barche, e io sì, proprio ci parli, con l'inseguimento, e se stai proprio riuscita a parlare nella laguna del Caule. Beh, abbastanza presto. Sì, e da quel giorno è sta laguna, si è stata chiamata Porto delle Donzelle, che adesso a Caule, che se porto delle ore, si riuscì a liberare Tose, i ga copà tutti i pirati, i che ha messo tutti i ferri ai pie, i che ha di mattoni non so dove, i che ha buttato in acqua, i che ha negato tutti. Beh, e qua anche una volta uccidevano. No, poco. Allora, cosa è successo? Che espose dopo, cioè adesso questo è il fatto, no, che è successo, quando che dopo sta festa è stata rievocata ogni anno, e non più per dal 31 al 2 febbraio, andava avanti anche a di più giorni, cavando via questo episodio, diremo che è successo, e a festa si è ripetuto ogni anno con lo stesso discorso. Solo che ori che faceva fare le processioni sulle barche e vestiva, fa conto, con le tuniche. Però il governo di Serenissima che prestava per, per fare il corteo e gioie del tesoro di San Marco. E ora gli metteva su dei grandi, gli chiamava palischermi, fa conto di disattaroni, dei barche con delle piattaforme per sola, tutte guarnie, dei fiori, che più che ne metta, e che c'era queste due desettose, diremmo che invece di fare una processione a pie, gli faceva sue barche, gli passava sui canali, e questa roba qua durava per giorni e giorni. Chissà che bello spettacolo che era. Era uno spettacolo, perché anche che a volta la tirava... la tirava a pubblico, sì, immagino. Ecco, quando che dopo torniamo all'origine, quando che ste spose, diremo, cioè quando che è rievocazione, che avevamo via adesso il fatto del rapimento, cioè, e ora praticamente una volta che veniva via da Cesa del matrimonio, sempre con questa processione, andava su un altro posto di Venezia, Santa Maria Formosa, cioè no, andava nella Basilica di San Marco e riceveva un'altra messa, e andava appunto quei candeli in pisae per la benedizione delle candele. E da quel giorno è appunto ste Marie, che cazzappà appunto il nome da Madonna. E si veniva a chiamare le Marie perché adottà il giorno della Candeora, e questa è quanto... Quanto concerne la Madonna? Sì, da. Dopo cosa si che è successo? È successo che la Repubblica, che ha pensato, quando che cioè, spendeva tanti schei per fare queste spese, a un certo punto, con questa guerra decisa nel 1349, gli ha pensato di sostituire queste spose con dei piavo e fatta di legno, e famose Maria de Toea. Non so se avete mai sentito questa frase. Sì, sì, naturalmente. Ecco. Ma il popolo già era scontento, e cosa aveva fatto? Gazzappà, ste piave, diremo, con fissi, con sighi e imprecazioni, insomma. Sospesa la festa, perché non gli poteva più andare fuori a quelle spese, non che sta altro che far solo una visita per i cesi, insomma, andava di qua e di là. Ecco, intanto sta festa col tempi moderni è stata rifatta, non più come prima, gli faceva sempre queste coste bambole, e da quel giorno hai pensa che sia nata che sia nata l'origine delle marionette. Ma guarda un po' da, ecco, dove derivano le marionette. Sì, allora da sto episodio di fatti di ste Marie de Toa e tutte queste robe rientrata il significato delle marionette, forse appunto riferio a piccole immagini di Maria Vergine che rappresentava ste spose, no? Che sei un esperto di robe veneziani che ritiene questa ipotesi esatta, in quanto a Venezia, appunto, è statuine della Madonna e sarebbe state dette marionette, cioè piccole Marie. Piccole Marie, beh certo. E sotto la voce Festa dei Marie, che per ricordare a Vittoria, appunto, sui Narentani, i rapitori delle donzelle, il 2 febbraio si celebrava la purificazione della Madonna, quello che ho detto prima. Se faceva 12 statue di legno, raffiguranti a 12 Marie recuperare, e se portava festosamente in giro per città. più tardi col tempo è stato e si sostituì con 12 ragazze, come che adesso si fa, che adesso è 7, adesso non so se è 12 Marie. Ma mai hanno cambiato? Perché il costo già era, ti hai capito? Prima c'era una roba che veniva fatta in offerta, adesso sì, sì, dobbiamo pagare. Ecco, e così insomma, la licenzietà dell'enorme dispendio che aveva questa festa popolare ha costretto il Senato di abolire queste feste nel 1379. E Pico e Marie dunque saranno essere altro che antenate delle marionette. Ma è andata avanti tanto però sta festa, perché è andata avanti, si è stata sospesa dopo tanti anni, perché appunto dopo Venezia che ha cominciato a andare in giro non aveva più tempo per queste robe, dopo che ci sta le guerre, che ci sta altre robe, cioè è cambiata, perché quando che c'era appunto sto giorno de Madonna Candeora io rifestizzavo con regate altre feste, altre robe, ti ha capito? Dopo questo sta nell'anno nel 1900 qualcosa che si sta ripreso sto discorso di queste Marie, gli ha da aver rifatte e dopo ha ripreso a tradizione, perché partiva da dove che veniva costruita e faceva la sua sfiata lo stesso, e dei poveri carnevali che ha cominciato 20-30 anni fa, finché dopo le municipalità che ci fa in mano e siamo arrivati ai carnevali di adesso, dopo che si sta la caduta della Repubblica, che si sta le guerre, ti capisco? Sì, ho capito. Tante robe che ha sospeso, però è tradizione dell'apertura del carnevale, risale proprio a ste Marie, da sta storia. Ma allora adesso come fanno? Dicevi sette... E Marie, quelle che verso il carnevale. Sì. Io come contai, non mi pare che sia 12, se 7, sì, è una per sestiere. Prima c'era due per sestiere. Ah, ho capito, hanno ridotto della metà. Sì, perché adesso c'è i costumi e tutte che robe... E quindi fanno tutte sei in barca e sì, fanno... Sì. E no, dopo, quando che sta prima concessione, diremo, del governo che dava sta dote, ste robe ai più poveri, dopo è successo con gli anni passando, cambiava anche le regole e fa mese di sti sestieri, perché Venezia che si è sestieri, no? E che sceglieva dopo il sestiere, dopo che ha cominciato anche a fare domanda, perché mi sono più povera di quella, ti ha capito? sempre questione di soldi. Sì, dopo che c'era baruffe tra sestiere e sestiere, perché c'ho mia sei più povera e tua sei più poveretta. È storia, ti ha capito? La storia si ripete. Si ripete. In maniera più o meno... Ma si ripete. Cioè, guarda, adesso c'è una notizia abbastanza recente, sto qua. Quando che ste Marie, diremo i prime, diremo che facesse processione, era appunto per chiamare anche gente che vedesse questi spettacoli. Cioè, pensate chi aveva attorno il coe, era ora con una tunica che avevano, mi te lo dico perché ho visto delle figure, se no come faccio a saperlo, e che aveva una bella corona in testa, proprio una corona, un gioiello, no, una coroncina di fiori, sì. E tutto un pettorale che arrivava, diremmo, come quegli egiziani, cioè i faraoni che avevano i popote pettorali pieni, cioè, di roba preziosa, e gli veniva a prestare a stetoso, no? Per cui i pirati le hanno rapite. Dai rapire per quello, no? Però quando che dopo si cascava la Repubblica, che niega più vestì e cusino dopo, perché ciò che vuole altro, con Napoleone che portava via tutto, che portava via anche a quei, perciò certo. Gli stai stessa. E che se qua un piccolo articoletto che dice una notizia di poco valore, ma che ha avuto la sua importanza storica, un decreto del Maggior Consiglio del 1300 ordina e concede di dare in prestito ai 12 Marie e più belle pietre preziose del tesoro di San Marco. L'abate Perzini, che non so chi che sia, tesoriere della Basilica di San Marco, è gaffato dall'anno della caduta della Repubblica 1797 al 1881 e ne informa che circa esoge de sfae e confiscae da municipalità provvisoria non vi è altro che un ricordo. E ha cominciato a cavare via i perle e pietre da una dei 12 corone e via via che tutte st'altre. E qua che è un totale che guarniva ste corone ed era tutte d'oro. Basta sapere che conteneva ben 1804 perle dalle varie misure, 833 pietre dure, 367 bassi, che non so che perla che sia, 365 zaffiri, 150 smeraldi, una grossa ametista, per un totale di 2.687 preziosi. E questi si però... e questi si gabbecca in Napoleone. Chissà che pesanti che erano tenere in testa, mamma mia. No, ma ti vedi, Jesi, gli orafi veneziani, che ne c'era tanti a Venezia, io lavoravo di giorno e di notte perché gli piaceva lavorare bene. Lo so. C'è Paschei, lo so. Che c'era gente signora che gli passava di che ordinazione, che niente, neanche non si rendiamo conto. Difatti... E botteghe c'era aperte di notte, perché gli veniva di mattina verso i 10, ma lavorava tutta, tutta la notte. Una volta era, facevano cose solide, belle. Che però sempre parliamo sempre di qualche secolo fa, no? Di adesso. Quello che mi vedigo, c'è sempre roba beh, certo, del passato. Antica, sì, sì. Che può darsi che adesso sia anche... E adesso l'oro. No, l'oro è importante roba. Ad ogni modo, vedere la storia come che si combina, si sa che... Ascolta Franca, a Venezia il proverbio sulla candelora? Sì, quello che sei tutti, la Madonna candelora dell'inverno siamo fuori, ma se piove tira e tira vento dell'inverno siamo dentro. Ah, il proverbio è sempre quello. Sì. Vabbè, e con questo proverbio ci fermiamo un momento, sì, per grazie. Ascoltare la seconda canzone in programma. Sì, grazie. Dopo... veniamo ancora con te. Sì. Allora, la seconda canzone in programma è intitolata Una gondola rossa e blu, cantata dai gondolieri. Una gondola nata ci detta in mezzo a Rio e abbaiava il twist. La faceva voltare con mare che arrabbia, faceva più nere che mai. Sapeva di essere bella e nero, a ea non gli andava so. La voleva finir sta giornata, in bota e s'ha fatto ben ben pitturar. Una gondola rossa e blu, non se c'era vista mai. Per Venezia nei so canali, li ha in barca solo così, che se la sarebbe na. Se spalla noi a sei cura solo te e a della città. Le comare le sei sicure che a civetta e a finirà mal. Una gondola rossa e blu, non si c'era vista mai. Gli faceva tutti restar, sbarbi, balsa mai. Dove mai si andrà a finirsi a Venezia e gondola e vai al fin. Ed eccoci ancora in studio e di nuovo con la Franca. Franca? Sì, sono qua. Ci sei? Sì, sono ecco, qua. Ecco, allora andiamo avanti col nostro discorso. Andiamo avanti col nostro discorso. Praticamente, è una frase mia che ho scritto, inerente sempre a sto rapimento di Maria, che ho messo che come i romani e i sabini, esposi a rapio anche i veneziani. Carina. Sì, sì, dopo va avanti questa storia. Finio a Candeora, diremo, perché ormai questa è l'origine, questa è la storia. E dice certi storici che quando che, diremo, la flotta veneziana, la flotta, l'armo dell'arsenal, riuscì ad arrivare svelti a Caole, a portare là, e dice che da allora sia nata prima origine anche delle regate. Ah. Perché ora dopo partiva, cominciava i regati, partiva da Isola, dove che Sant'Erasmo, Cavallino, tutte che partiva, per portare presto la verdura a Rialto in erbaria. e ho ripartito con le sue barche e ha cominciato a remare talmente forte che chi arrivava primo prendeva più roba. Ah, certo. E anche qui c'era insomma regate. Anche qui si chiamavano regate? No, non si regate, pensa che l'origine dei regate sia proprio... Ah, sì, è questo, ho capito. Perché c'era di tosi, insomma... I isolani, i venesiani antichi, c'era tocchi di uomini forti, avevano una resistenza. Proprio veri isolani. Marinieri, pescatori, insomma, c'era gente che sapeva, che aveva qualcosa da che fare col mare. E che sapeva anche vivere. Sì, perché... e così adesso torniamo un po' a sto carnevale. Allora, da Candelora nasce il carnevale. Cosa? Ah no, ecco, l'origine, se ti vuoi sapere, mi dico per cosa, che il carnevale si chiama così, cominciamo. Sì, sì. Allora, la sua etimologia consiste che nel Medioevo, sempre dal paganesimo, nasce il termine carnovale. E senza dubbio nessuno conosceva il significato della sua origine, che deriveria da car nevale, cioè due parole divise, car nevale, corruzione del termine carus navali, carro navale. Corruzione delle navi? No. Sì, no, dei carri. Dei carri, corruzione. Cioè da carri da processione a forma di una nave. Che c'era tirai sotto con dei rode praticamente, sì. E faceva fare conto una nave e dopo gli ornava con chi fa adesso i carri, con fiori, con frutta, con fronde, con chi più che ne metta, stoffe, colori. E c'era usai a Roma ne funzione di purificazione, ti vedi, in onore di Iside e Dionisio, nel mese di febbraio. Due dei greci? Sì, due dei greci, cioè è pagana, no? L'interpretazione cristiana, invece, eseva questo termine in latino come a dargli un accenno a carne, invece di carus navale, che da carne, quando in quaresima non si poteva mangiargli. Collegando a modo adesso? Suo a carne levare. Ah, levare la carne. Ecco, dai mense nel periodo dell'astinenza, cioè i 40 giorni di quaresima. Questo sì. Mi pare che sia una cosa che anche adesso non si può. Sì, no, solo il venerdì mi pare. No, Antonio. No, a quaresima se tu vuoi mangiare magro, perché ti vedi nel paganesimo. Che c'era e orge, che c'era e feste dedicate al dio questo e di astaltra e feste orgiastiche, che c'era anche feste, diremo, licenziose. Sì, sì. A un certo punto col cristianesimo si è tolta, perché i cristiani, il cristianesimo si è tolto tutte le feste pagane cambiando che nome, cognome, indirizzo, ma è sempre quello. Sì, sì, in sostanza è gira e volta. Ecco, questo sì in quanto l'etimologia del carnevale. E della parola carnevale. Invece l'origine del carnevale, che siamo sempre un fiantin come l'etimologia, e si è collegata a quella ai funzioni in onore di sto benedetto Dionisio. Sto Dio che rappresenta... Dio di che cosa? Che non mi ricordo. Dio del vin. Ah? Che rappresenta la vita vegetale della natura, collegandolo ai rappresentazioni di commedie e tragedie, che ricorda i baccanti di Euripide. E le feste baccanali. Sì. Sto culto ega come risultato i rituali fatti da orge, ho appena detto adesso, dove donne erano sue protagoniste, inoltrandosi a notte fonda dentro i boschi, con fiaco e bastoni, accompagnati da tamburi, flauti, dando sfogo a movenze satanae, e invocava Dionisio in figura di toro. Addirittura. Che è il dio che fa onore al vin. Dove è amiche che porta dolcezza e ai nemici li fa diventare matti. Sì, perché io pensavo che il dio del vino fosse Bacco. Insomma, Bacco se aspetta, cioè Dionisio è greco, è 1-0. Bacco, sì. Era con l'avvento del cristianesimo, sempre siamo qua, ste feste pagane e viene messe a bando da accesa. Ma è condanne contro gli attori, spettacoli e divertimenti, se arrivai ai tempi nostri, anche se che si sta proibito tutto. Sì, se arrivai sotto altra forma, altro nome, ti ha capito. Adesso per esempio invece che con le navi si fanno i carri. Sì. Allora, perché ti pensi che a Venezia, quando che, sempre parlo ai origini, adesso sì, date, sì, i giorni, i mesi, anni, non mi cioè, il carnevale. Venezia era sempre in carnevale, perché cominciava il carnevale al giorno di San Stefano. Ah. E finiva, che dava spazio alle festività di Natale, e dopo andava avanti, anzi cominciava anche a ottobre delle volte, perché venivano i teatri. E ora per andare a teatro bisogna che fosse mascherai, logicamente no, le maschere come che si desse, che aveva che famosa maschera che si chiamava Bauta. Ho capito. Quella che ha il cappello col tricorno, col manteo grande, dopo tutta che ha maschera bianca sul viso. Ah, e lui dava così. Come il clown, no? No, no, il clown. No. E si chiama maschera bianca che coverse tutto il viso. È proprio una specie di larva che fa paura perché è bianca cadaverica. La ricordi, Antonio? Sì, naturalmente. Sì. È Bauta, che poi è Bauta, non è maschera, è maschera si chiama larva. È Bauta, è tutto il costume, il vestito che aveva nome così. Tutto il pareccio, perché praticamente no, e aveva una specie di passamontagna, diciamo. Sto passamontagna che dopo andava a coversi tutte le spalle e veniva a chiamare rocchetto, ed era o di seda o di raso. Col tempo invece si è gonfiato di finà e ora io ho fatto sta mesa manteina di merlo, qui che ti vedi adesso. I belletti, sì. No, ma un bel merlo. Merlo, sì, sì. Dopo, sì, col tricorno in testa o il capello, che si incana storia sul capello, insomma, e si metteva sul viso sta maschera bianca, una larva era proprio, è Bauta, cioè no, qui era larva, è Bauta del costume, e si distingueva gli uomini dai donne perché le donne che aveva cotto, si vedeva le scarpette, così. Però io era vestito i compagni, cioè l'uomo che aveva magari il manteo nero e la donna che aveva i sobroccati, sì, sì, erano magari che colorati, sì. Un po' dei vestitoni, ti ha capito? Beh, sì. Dopo che sei stati momenti che è già permessa, di momenti no, gli doveva andare sui conventi a visitare i suori, ma gli doveva cavarsi, gli doveva portare barbi, insomma, era dei leggi a Venezia che era un fenomeno con questa maschera. Mamma mia. Adesso com'è il carnevale? Si dicono che è un bel carnevale. Il carnevale è bello, non ha niente da che fare con i carnevali storici della volta, certo, di Venezia, certo. Perché Venezia è particolare, adesso è bello perché ciò che c'è tutte sto pienon per tutta la città, queste maschere, posto anno, mi pare che sia anche di spettacoli diversi per i cai, per i campieri, e in più in piazza i cadaver verto come altro anno e a Fontana che vi è fuori al vin, no? Che bello! Una volta, dove che sei i docoroni, diremmo, su che posizione ha, che sei un architetto che ha fatto sta fontana finta, diremmo, sì, e sì. Che sta a ricordare quando che c'era i banchetti di vin che vendeva attorno al campanile San Marco e ora sarebbe stato titolato all'ombra del campanile. Ecco, dopo... Al posto di questa macchina adesso moderna, in antico io rimetteva una macchina che faceva i fuochi artificiali, per esempio. Gli faceva dei spettacoli pirotecnici, che se ne ha... Quindi lo spettacolo pirotecnico è antico? Sì, ma io lo facevo proprio su quel posto là, perché dava spettacolo a tutti gli ospiti che riceveva serenissima, principi, re, imperatori, papi, conti, marchesi, di tutto. E che c'era dopo anche queste famose carri, diremmo, carri navali in acqua. Sì, appunto. Ed era appunto come prima che te parlavo di schermi, ed era delle barche che dopo gli guarniva e pareva salotti. Sì, sì, invece di essere carri che come abbiamo, erano in acqua. Ed era tirai, forse che c'era un meccanismo, non so, perché erano tanto bravi una volta di fare quei meccanismi nascosti, fa conto di delfini o da re Nettuno. Gli metteva tutte le divinità anche a ritorno queste gran barche, c'era magari a Porodai sul bacino di San Marco, perché dopo, quando c'era il boom del carnevale, come che sta sti giorni che sta il svolo. Ah sì, sì, diremo, sì. Non so se di svolo di Colombino o dell'angelo, perché ha due significati diversi. Cioè, il volo dell'angelo cosa significherebbe? Il volo dell'angelo significherebbe appunto questa persona, uomo o donna, vestito da angelo, che viene giù dal campanile. Invece è colombina, era proprio tanti anni fa, non so se ti te ricordi, buttava su proprio, era una colombina. Ah sì sì, era fatta ricordo, di cartapesta, perché qui era segna alla pace dopo le guerre che si sta. Invece quest'anno, sì, era una ragazza. Questo anno è svuo dell'angelo, direi. Sì, sì, sì. O perlomeno, dato che è una donna, tanti che dicono, cioè, svuo dell'angelo, l'altro anno era vestita con ai, e ora era un angelo. Sto anno invece era bella, perché l'ho vista, ed era una colombina, fa conto. C'era anche tanto vento, mi ricordo che hanno detto, vento, sì. E dopo gli faceva delle de feste, insomma, immaginarie, e c'è stato un anno, appunto, chi ha fatto prima questa colombina e dell'angelo che c'era il svolo del turco. Cioè? Allora, dal svolo del turco all'angelo e alla colombina. Lui dice che in piazza San Marco il tradizionale svolo dell'angelo e ha come protagonista un'atleta veneziana, ben qui l'altro anno, 2-3 anni fa, era un'atleta. Dunque, l'origine va ricercata nel svolo del turco, cioè il volo del turco, l'impresa dove si sta protagonista a metà del 500 proprio un turco acrobata di mestiere. Non sapevo sta roba. Allora, da una barca che era ancorata sempre sul bacino di San Marco, dove che sei corone, vero, davanti al moio, l'acrobata riusciva ad arrivare fino a Cea Campanaria del campanile di San Marco, camminando su una corda, solo aiutandosi da un bilanciere, come un funambolo. Cioè da dall'acqua, che c'era le corde, quei caruco e attaccare sì, insieme al campanile, io con una asta faceva il funambolo e si arrivava camminando fin in cima del campanile, cioè era magari anche un'acrobata. Sì, sì, beh, bisogna essere, perché sennò penso che sia difficile. Sì, sì. Allora, sta barca era saldamente ancorata nel molo, davanti, e dunque l'acrobata si riuscì a arrivarci, cioè, dal campanile di San Marco, camminando su una corda soltanto con l'aiuto di un bilanciere. C'è stata tanta l'eccitazione della gente che per sé qui si è rinnovato l'evento con numerosi varianti, sempre di più effetto, perché cambiava acrobata, cambiava personaggio, però era talmente esercizi da far paura, insomma. Tanto che col tempo è diventata una cerimonia ufficiale col doge che premiava sto turco dando gli schei. Tutto sempre Dio palanca è no, sempre aspetta, con una somma in cambio del massetto dei fiori che veniva portata alla loggia di San Marco dal campanile, cioè quando che arrivava l'acrobata che dava un masso di fiori al doge, cioè il doge che dava il compenso, certo ed era anche giusto, no? Ecco. Ascolta Franca, sì, adesso ci fermiamo, sì, per un'altra canzone, sì, poi riprendiamo, sì, e prima di salutarci sì, tu e Antonio leggerete una sì, poesia, sì, va bene? Sì, grazie. Ecco, un attimo solo. Sì, sì, sì. Bene, allora la terza canzone in programma è intitolata El Sandro, cioè è sempre cantata da Alberto Colla. Sentirsi ancora in mala tutte senti di restare. Camparò povere si soi e se conosci che moi mi la vado a savagliar. A savagliar. E se conosci che moi mi la vado a savagliar. Goprunto il santo io. Benedetto sto momento chissà de rovinar, de rovinar. Che col mio preferamento godisca de rovinar. O con quel santo io, perciò com'ecco, te pace a te gloria per fare amor. N'amore in gloria e a Eccoci di nuovo in studio. Franca? Sono qua. Sei qua. Ascolta, finisci un attimo tre parole. Sì, sì, sì, finisci, sì. Attenta, torniamo con svolo del turco. Sì. Nel 1700, che sta quattro esercizi a fare questo spettacoloso esercizio. Uno era a cavallo di un satiro che ha fatto un pupazzo, insomma. Uno su una barchetta, che corremo, faceva finta di vogare, ti te rendi conto? Sì. Che faceva finta di vogare in aria, sempre su una corda, tira quel carucco, eh? E il terzo, c'era invece armata do picco i canoni, un altro eroe, se arriva fin e c'è a campanaria, solo un cavallo vivo, come dove hai messo il cavallo? Ma non so, è veramente come si... Sì, no, guarda, ti dico, Venezia è fantastica. Mamma mia, che acrobazia. Dunque, praticamente, se arriva in alto, svendolando una bandiera e montando prima sopra l'anzo, in alto dell'anzo, sventolando il viso, perché aveva caldo, e bevendo dal fiasco, dove trincare dei vini. Poi mi ha fatto specie quella fontana che buttava vino. Sì, sì, ma sì, sì. Sai quanti bicchieri? Anche altro anno è che sera. Sì? Dopo mi godo aver visto per televisione, perché a Venezia ho problemi, non posso andare tanto in giro, andrò stanno che vien con camminare mezzo. E ha messo davanti di me coco. Sì, dopo. Sì, che gli ha messo un toro, dove che è la punta di Adogana, dove che la... Insomma, io ho messo sto toro, siccome che sto toro ha una storia anche qui, che ti dirò un'altra volta, se non è messa lunga. E dunque, altro giorno, è giovedì grasso, no? No, oggi è giovedì, giovedì grasso. Gavevo, oggi è domenica grasso. Ecco, avevo sentito che sto toro io brusava, ma non che adesso più, perché col vento si svuota in acqua, insomma, non so, non io vede più. E anche se è una storia con sto toro, perché a Venezia, sti periodi di festa e carnevale, che c'è dei cacci i tori. E proprio il giorno del giovedì grasso, che c'è una tradizione, una volta e adesso no, che gli tagliava proprio a testa un toro vivo, che non era un toro, già era un bel bo. Ho capito. E che c'è una tradizione antica che vi dirò un'altra volta. Ma va bene. Sarà un gatto, sì. Ascolta, sì, Franca, adesso... diamo la parola ad Antonio e così poi leggete la poesia. Sì, bene? Grazie. Certo, niente, volevo una informazione così di servizio. Naturalmente il dialetto veneziano è talmente ricco e talmente dolce, eccetera, che cercherò di imitare in modo per quanto possibile decente, diciamo. Troppa grazie. Allora, la poesia come è intitolata? Vado avanti? Aspetta, sì. La poesia come è intitolata? La poesia si intitolata Ve porto Carlo Goddoni qua a memoria, cioè è un'immagine mia che mi faccio di incontrare questo personaggio. Ok, a te. Vado avanti. Con gli occhi trasognai dei ricordi e rimpianti, una vaga figura cammina a passo lento, lento, e a punta del baston batte colpi secchi, quasi voler contare i masegni di città. Serio il suo viso, e qualcosa di occhio cerca di capir è il movimento de avri che parluse foresti. Me si avvicina davanti sto sior de 200 anni passai, e col far garante, el me fa un repeton. Vos signoria, digo mi, el me fassa l'onor de repetermi co gusto, co garbo de gentilomo, cosa se sta per lui, el dietro mio venezian, che tanto il ga de cantà e amà. Sta parlata antiga, ga sa solo vu parerede, a nessun più e a gagarbà, sota e a sedeventada, perché col talian bastardà. E dialetto, cara fia, se esogeo dai radise fonde, la storia dei nostri avi che gacolmà Venezia de gran prestigio e civiltà, venesando par mar, sto arsenal de paroese diventa oceano par nu, e la città d'Ogada che ne avuto gloria, sta cultura scritta sua carta nella memoria se sbrissada, così se nato sto idioma anche se smissiada vocabo i turchi, francesi, arabi e tedeschi, capio da tutti, perché unica lingua, universal. I nostri sestieri, quei dei pescaori e marineri, gai case che vive ancora il cuore del muffin, gode ancora desta musica, vocabolario de parole sto coco esso, tolse, petà sua lingua che se descoia solo coa cioccolata impetoeando l'anima. A sta città mi godà cuor e testa. Un veo de caigo sconde una bava de sol, che basa il viso, è svampisse de boto, lo compagna i gloriosi fantasmi che si ronzoava attorno al succuccio parisin. Intanto che l'ultimo suo saiuto gera sul palco è il teatro della sua vita. Molto, splendida. Molto bella. Complimenti, Franca. E complimenti anche Antonio. Molto complimenti. Sì, troppo, molto gentile. Bene, brava. Molto, no, ma anche Antonio Gadanna, bea. Bisogna cercare di rendere effettivamente Antonio, il clima, Antonio, è così, è fondamentale. Lei che ascolta, che mi dà l'onore di essere Papagoldoni. Grandioso, un onore impareggiabile. Non è mica facile sa parlare come Papagoldoni. No, no, evidentemente no. Ma Antonio ha una veramente bravissimo per queste cose. No, ma ti vedi, sta qua, poi mi vengo anche a cercare di dargli di bucabi un fiantino antichetti. Certo, no, è proprio quello che rende evidentemente la cosa. No, come facevo. Cioè, la Venezia è antica, insomma, il dialetto antico. Beh, proprio antico no, però che se dei parole, per esempio, non so se Antonio Gacapio è il repetone. È il repetone, naturalmente, so, è sì. È un mezzo inchino, certo, no? Certo. So, i repetoni. E non sapevo, il repetone pensavo che fosse una caduta. No, repetone, i famosi repetoni che fa Arlecchino, no? Ho capito. A proposito di Arlecchino, guarda che la maschera veneziana è pantalone. No? Ah, è pantalone, ho capito. Arlecchino cos'è, bergamasca? È bergamasca. Arlecchino si è diventato di veneziano perché ha messo le combine, in più perché fa parte della commedia dell'arte. No? Veneziano d'adozione, diciamo. Pare che fosse pantalone, ma... No, è pantalone perché ciò che si stanca è rientrato anche dai commedia ebreo erante, no? Uh-huh. È sempre aiuto. Quello che paga sempre. Quello che paga sempre, pantaloni bisognosi. Ah sì, pantaloni bisognosi. Veniva a chiamare illustrissimo, serenissimo, non caiu, insomma, perché era birbante. Pare fosse una commedia, pantaloni bisognosi. Bisognosi, sì. Ecco, recitata da Cesco Baseggio, sì. me la ricordo. Che sono tante robe da ricordarsi. Beh, Franca, comunque la prossima volta sarà... un altro argomento e penseremo. Guarda, mi ho udito ancora, mi non so una storica o un storico come che dice, però mi piace più questi episodi storici, diremo, fuori della storia poetica. Ah, sì, che sì, è sì. Se manco con sua. I più significativi anche. Sì, è più folcloristica, certo. Che se tante robe, che se poi magari a brani, che se di certi primati di Venezia, che altre città, e se arriva dopo, per esempio un Calpiron, la Forchetta. Sì, che in Francia esce dal primato, non si vede un tubo. No, perché è veneziana? Il Piron è nato qua perché lo ha portato un'imperatrice bizantina che era abituata a mangiare col Piron, però che aveva solo due ponte. Ah, solo due, non tre. E ha sposato un doge ed era abituata bene e non portava il mangiare con le mani in bocca come che faceva tutti quanti. Aveva questo forchetto. Questa forchetta? Sì, perché noi quella forchetta da due punte la chiamiamo forchettone. Sì, o forchettone. Sì. Tanto se è vero che è morta, ma è mente puareta. E siccome che il forchetta che adoperava aveva il simbolo del forchettone del diavolo, gli ha detto insomma che è stata condannata perché aveva il forchettone del diavolo. Perché è accesa che ha messo i sate in cara, non andava bene. No, va bene. Franca, sì. Allora noi. Ti ringraziamo veramente di cuore, altrettanto. Con la speranza che, di risentirti ancora ancora con sì. Anche da parte mia ringrazio sentitamente. È stata una bellissima conversazione. Sì, no, cioè, spero nella mia umiltà, diremo, culturale, da aver spiegato. No, è stata bellissima, guarda, sei stata esauriente. Chiese delle robe che magari qualche turno ne conosce. Sì, fa piacere. Ho fatto un fiat di luce. È sempre cultura. Va bene. Grazie Franca. Grazie, buonanotte. E buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì. Alla prossima volta. Ciao. Ecco, ringraziamo ancora Franca e andiamo con la quarta canzone in programma, cantata sempre dai gondolieri, intitolata Na gondola de casada. Sento che a Venezia succede cose strane, ma qui a chi ma conta Iaia sa senza fia, da Santa Croce a Giudecca, da Canareggio a San Marco, se parla sempre di sto fatto che se qua. La gondola de casada in basso si cascava, così dice la gente, ma non mi importa niente, come morosi in fregoia, i gaia stessa frigoia, e le amiche carezza parlandosi d'amor, d'amor, d'amor. Noi altri gondolieri non se ne raveggiamo, la gondola di casata parti ingiustifichiamo, e da portare il moccolo a tanti innamorati, nessun se accorgeva che aveva un cuor, un cuor, un cuor. De casata in basso se cascata, così dice la gente, ma non mi importa niente, come morosi in fregoia, i gaia stessa fricoia, e le mise carezza parlandosi d'amor, d'amor, d'amor. Noi altri gondolieri non se ne raveggiamo, e a gondola di casata per fin giustifichiamo, per rapportare il moccolo a tanti innamorati, nessun se accorgeva che aveva un cuor, un cuor. Ed eccoci di nuovo in studio per continuare con il discorso di Franca. Sempre dal libro Par modo de dir del professor Gianfranco Siega, Andare in Bauta. Nella tipica ed elegante maschera usatissima in Venezia nel 1700, in verità la bauta non potrebbe essere definita maschera in senso tradizionale, come abbiamo visto, come quella del carnevale, quanto piuttosto schermo, travestimento. Era infatti usata dai nobili che frequentavano i casini di gioco, ma per giocare d'azzardo, specie sulla parola, bisognava essere ben conosciuti, ed eccezionalmente anche da donne che non volevano farsi riconoscere. La bauta era composta da un tricorno, da un ferraiolo e da una mantellina partente dal capo e ricoprente le spalle, propriamente la bauta detta anche velada, ma che lasciava libero il viso, coperto poi da una mascherina detto volto o larva, nera o bianca. Il termine, conosciuto già nel XIII secolo, deriva probabilmente da bavaglio, derivato da bava, tampone che impedisce di parlare, per la protuberanza inferiore della mascherina, o anche in alternativa dal tedesco behüten, nascondere, celare. Poi abbiamo anche un altro simpatico termine che è barba. Zio, esattamente. In questo significato, peraltro assai diffuso, il termine è da considerarsi come un traslato allocutivo indicante persona anziana, uomo autorevole, uomo con barba. In senso di zio, il termine è usato anche da Dante, del barba e del fratel, l'opere sozze. In senso generale di rispetto è invece adoperato ancora oggi dai valdesi che chiamano barbetti i pastori della loro fede. Aggiunta, in queste brevi note si è sempre scritto degli importi di lingue diverse dal nostro dialetto. È giunto ora il momento di prenderci una piccola soddisfazione, ma ce ne saranno anche in seguito parecchie altre in questo volume. Nel porticciolo di Eli, di fronte all'isola greca di Sperses, un piccolo locale di mescita per insegna Barba Spiros, zio Spiro, quasi la venezianissima insegna di una nostra osteria. Nota, la barba fu pressoché sempre usata nelle varie fogge della moda imperante dai veneziani. Cadde in disuso, anzi fu addirittura ostracizzata per l'avvento della parrucca alla metà del 1600. Nonostante chi la portasse fosse ormai additato come barbogio, il nobile Paolo Foscari ebbe il coraggio di continuare a serbarla, suscitando commenti e chiacchiere pari a quelli che circolavano per Atene sulla coda del cane di Alcibiade. Alcibiade, è un nome che ho sentito ancora in passato. Hai col giatto? No, direi che... Allora cosa facciamo? Ascoltare una canzone? Un'ultima canzone, sì. Direi che possiamo farlo. Benissimo, allora ti ascoltiamo l'ultima canzone, sempre cantata da Alberto Colla, Cuor e chitarra. Eccoci di nuovo in studio per l'ultimo saluto, perché ormai il tempo nostro sta per scadere. Cosa, Antonio, hai visto che presto che ha fatto passare? Ma qui io vedo che questi appuntamenti così corrono velocemente, tempus fugit, dicevano, ed è proprio vero. Ma fugge in termini anche piacevoli, perché, sì, sì, perché altrimenti... se fosse così barboso, barbogio, come si diceva prima, non... sarebbe un qualcosa di molto faticoso anche. Invece trovo che questa leggerezza, questo modo di stare insieme con, così, sì, in armonia, senza con levità, ma senza, diciamo, essere eccessivamente futili e fatui, diciamo, che credo sia un qualcosa di apprezzabile, che, certo, mi pare apprezzino anche i nostri, certo, certo, le nostre ascoltatrici, sì, i nostri ascoltatori. Infatti salutiamo anche le amiche di Legnano e di Roma. Molto volentieri, ecco, noi diciamo sempre ci allarghiamo, ecco, il nostro malgrado, diciamo, ecco, ma con molto piacere. Tutti devo dire gli ascoltatori, certamente. Però più ce ne sono e meglio è. Assolutamente. Penso che dopo la trasmissione, domenica scorsa, mi ha chiamato l'amica di Roma. Oh, benissimo. Per complimentarsi con noi, insomma. Insomma, noi ringraziamo sentitamente. Noi ringraziamo, bene. Allora, Antonio, come sempre ti ringrazio. Io ringrazio voi. Ti auguro buon carnevale, buon martedì grasso. Ma benissimo, ma sempre con moderazione naturalmente. Sì, vabbè, tanto noi non facciamo grandi strapazzi. Assolutamente no. Allora, con te e con il nostro caro regista Eddie Daici vi diamo una buonanotte serena. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.